Il cinema di Visionari il giovedì su Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dove potete ascoltarci in diretta, ma potete farlo anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, la voce sull'home page c'è l'opzione ascolta la diretta. Per quanto riguarda tutte le informazioni sulla scaletta della trasmissione di oggi, ma più in generale su Visionari, potete consultare sia il sito della radio alla voce trasmissioni Visionari sia la pagina Facebook. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Sebastiano Rizzo, regista del film Nomi e Cognomi, in uscita in sala oggi giovedì 14 maggio. Sebastiano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, premetto che non sono riuscito a vedere il film, ma gravissimo. Però mi incuriosiva molto la trama e ho visto qualche trailer, letto un po' di informazioni. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' di cosa si tratta, Sebastiano. Ma guarda, velocemente è un film che vuol fare un po' riflettere, no? Cerchiamo un po' di smuovere le acque con questo film, raccontando e dedicando più che altro questo film un po' a tutti i giornalisti che sono stati ammazzati dalla mafia, e quindi vuole essere un omaggio a questi giornalisti, e ce ne sono tantissimi in Italia e in tutto il mondo, che fanno il loro lavoro con la schiena bella dritta, non si fanno tediare così da facili coinvolgimenti. E in Italia ci sono questi giornalisti storici ammazzati dalla mafia in passato: Siani, Mauro Francese, Rostagno, Alfano e quant'altro, che purtroppo hanno fatto una brutta fine semplicemente perché facevano il loro mestiere. Quindi 3 anni fa abbiamo fatto un cortometraggio dedicato a Pippo Fava, appunto giornalista ammazzato nel 84, che ebbe un grandissimo successo perché ha vinto Taormina e altri premi vari in giro nei vari festival, ed è diventato un film non solo dedicato a Pippo Fava, ma abbiamo alzato il tiro, abbiamo fatto un unicum storia ex nova, raggruppando un po' tutti i giornalisti, e quindi è un film che farà molto riflettere. Racconta un giornalista interpretato da Enrico Loverso, straordinario, che torna dal nord, rientra al suo paesello del sud e comincia a fare un giornalismo sano, non si piega e scrive quello che vede, come diceva la grande Politoscava: il giornalista deve scrivere quello che vede. Senti, tra l'altro, due parole, ho cercato di farti un sunto. Sì, sì, sì. Sei stato anche puntuale, esaustivo. Volevo chiederti come è partito l'idea di fondo e poi il progetto che hai messo in moto. Ma l'idea di fondo, come ti accennavo, è nato 4 anni fa facendo questo cortometraggio su Pippo Fava, che tra l'altro nacque da una canzone scritta da a Peppe Giuffrida, che appunto è un videoclip che si trova anche su internet, su YouTube, che si chiama Passa la Banda, che proprio il testo è un omaggio a Pippo Fava. Fatto questo cortometraggio, che ripeto è andato molto bene, siamo stati proprio spinti col produttore a realizzare un film che, grazie a Dio, tra la visione della stampa e l'uscita proprio oggi in tutte le sale italiane, sta avendo un ottimo riscontro di critica, non tanto del pubblico, perché purtroppo il pubblico ancora non ha avuto il piacere di vederlo, ma la stampa e i giornali ne stanno parlando molto bene, e questo mi fa molto piacere, insomma. Quindi vi spingo ad andare nelle sale a vedere un film diverso, semplicissimo nella sua realizzazione, molto bello nel cast: Enrico Loverso, Maria Grazia Cucinotta, Marco Rossetti, Dino Brescia, Mingo De Pasquale, il Fabio Mingo di Striscia la Notizia, Mimmi Bruschetta e un'altra squadra di giovani attori bravissimi, che sicuramente farà molto riflettere. Tra l'altro, io ho anche uno spazio teatro qui a Radio Onda Rossa e ho ospitato 2 spettacoli, uno dedicato proprio a Pippo Fava e un altro dedicato alla vicenda di Impastato, che avrà anche un seguito, perché martedì prossimo ne ospiteremo un altro sempre su Impastato. E tra l'altro lui, prima di fondare Radio Out, quando venne a Roma visitò proprio Radio Onda Rossa, che era da poco nata. Radio Onda Rossa è una delle prime radio libere, nata nel 1977, figurati, insomma, che intrecci che ci sono. Senti, bene, dimmi. Senti, e per quanto riguarda la distribuzione, ecco, come avete lavorato in tal senso? Ma la distribuzione, in questo caso il produttore ha lavorato in maniera anche qui indipendente, essendo una produzione giovane, indipendente. Purtroppo il mercato italiano, spesso le produzioni giovani, indipendenti, progetti nuovi li guardano un po' strani, oppure non sono così propensi ad allungare una mano, quindi il produttore ha girato l'angolo e in qualche modo se l'è distribuito in maniera indipendente, facendo degli accordi con le sale di Lucia e Luci Cinema, prendendo diverse multisale in tutta Italia. Quindi se voi andate sul sito di UC Cinema trovate nelle varie regioni italiane il posto in cui troverete Nomi e Cognomi. A fianco a questa cosa qua, altre agenzie con gran piacere hanno comprato e preso il film, perché lo trovano molto interessante e sicuramente anche un messaggio per i giovani molto molto buono da far riflettere e far capire un attimino qual è la professionalità e l'etica di un giornalista. Ecco, rispetto ai giornalisti che hai nominato e che vi hanno ispirato, su quali materiali avete avuto accesso e avete lavorato? Guarda, in realtà parecchio bagaglio sul cortometraggio, lavorando sulla vicenda di Fava, e quindi abbiamo preso tanta ispirazione da lui. Poi comunque guardando Fortapace, tutta la storia anche di Siani, di Impastato, insomma si è raccolto parecchio materiale e si è trovato un intreccio similare per poi raccontare non tanto come sono andati i fatti, perché nel film è quello che io tendo a raccontare in questo progetto, come è stato nel corto e come sono nei prossimi che sto in preparazione. Non mi interessa assolutamente raccontare che cosa fa la mafia, che cosa fa la camorra, che cosa... Lo fa la magistratura, se ne occupa la magistratura e la gente che è anche stanca e stufa di vedere le solite cose, di come si muove, che come terrorizza queste mafie in generale. Io voglio raccontare la parte umana di questi personaggi, quindi sì. Come nel cortometraggio abbiamo raccontato il punto di vista della figlia, quindi Elena Fava, di come era il rapporto col padre, allo stesso modo nella storia di Domenico Riva, che è il nostro giornalista interpretato da Rigolo Verso, raccontiamo l'aspetto umano, familiare, i rapporti con la moglie, la straordinaria Maria Grazia Cucinotta, il rapporto con i propri ragazzi all'interno della redazione, ma sempre il lato umano. Il reparto, diciamo così, mafie lo tengo proprio come tappeto di contorno e basta, ma io voglio raccontare la parte sana di queste persone, perché anche alla fine deve esserci un messaggio sano per chi lo guarda. Bene, allora in chiusura, Sebastiano, in quante sale è presente da oggi? Guarda, esordiamo con 50 o 55 sale a partire da stasera, e quindi vi aspetto tutti nelle sale tutto questo weekend, in modo tale che il prossimo weekend diventeranno 100. Se piace e ha un ottimo riscontro, possiamo salire e dovrebbe essere una vittoria, potrebbe diventare una vittoria di tutti quanti insieme sicuramente. Sebastiano, un abbraccio e alla prossima. Grazie, bocca al lupo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sebastiano Rizzo, regista del film Nomi e Cognomi, in uscita in sala da oggi giovedì 14 maggio. Passiamo ad un altro lavoro in uscita in sala domani, venerdì 15 maggio, il documentario Animali nella Grande Guerra, diretto da Folco Quilici, che è in linea. Folco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Sì, salve. Ma diretto è una parola, scusami, diciamo in questo senso inesatto, diciamo okay. Ricomposto da milioni e milioni di metri di pellicola che abbiamo visto cercando tra questi film italiani, francesi, tedeschi, austriaci, inglesi anche, quelle immagini che per caso o per sbaglio avevano inquadrato anche degli animali. Non era nelle mire degli operatori che allora cominciavano il loro mestiere di operatori di guerra. È la prima volta che il cinema entra in un conflitto e non può ignora insomma il mondo animale, a parte i cavalli. Non può ignorare i cavalli perché erano la forza degli eserciti. Senti Folco, intanto è un piacere averti qui. Io da bambino sono cresciuto sui tuoi lavori, per cui oggi ti ritrovo qui in collegamento ed è un piacere. Allora, mi interessava questo. mi interessava questo lavoro perché insomma la prospettiva dalla parte degli animali coinvolti nella prima guerra mondiale, e l'esempio che mi viene in mente da un poeta romano che poi ha avuto anche uno sviluppo teatrale, Li romani in Russia, sto parlando di questo poema, l'immagine forte che per esempio esce dalle pagine e rivive anche a teatro è quello dei soldati italiani in Russia che per sopravvivere non solo mangiano gli asini avevano in dotazione, ma ci si rifugiano addirittura dentro per sopravvivere al gelo. Sì, ma questo era già successo nella prima guerra mondiale. Sì, questo. Ed è successo soprattutto dalla parte degli austriaci, perché lì la fame si era fatta sentire. In fondo il grande attacco, la nostra sconfitta di Caporetto era dovuta al fatto che gli austriaci cercavano di arrivare in Valpadana per mangiare, non era tanto solamente uno scopo tattico di guerra. E quindi il problema della fame e dei cavalli mangiati, specialmente nel 18, negli ultimi mesi del 18, gli austriaci si stavano mangiando tutta la loro cavalleria e non avevano anche per questo più la forza di avanzare o di fare la guerra. Senti Folco, ecco, nel primo conflitto, anche attraverso le immagini che avete trovato di questi film, qual era il rapporto tra l'uomo e l'animale in periodo bellico? Beh, ci sono due punti di vista. Uno era un rapporto utilitaristico, cioè di trasporto, certo. Per i cavalli purtroppo nelle battaglie e i loro attacchi ci fu per esempio una follia italiana che al momento della firma dell'armistizio, qualche ora prima della firma dell'armistizio nel 1918, un colonnello comandò una carica di cavalleria contro gli austriaci che già stavano fuggendo, quindi provocò altre morti e molte morti tra anche dei loro cavalli oltre che dei cristiani, del tutto inutili, per dire. Quindi il problema coinvolgeva i cavalli in prima persona proprio come forza di combattimento oltre che forza di trasporto. Tutti gli altri hanno avuto altre mansioni che via via sono emerse. A me è interessato molto, e avevamo anche del buon materiale e delle buone cronache scritte, il rapporto con i cani. Per un verso i cani che venivano, ci fu proprio una leva, come ci fu la leva degli uomini, ci fu la leva dei cani in Austria, in Germania, in Francia e poi anche in Italia. Non abbiamo molte dati precisi, però furono migliaia i cani reclutati per fare la guerra, per portare gli ordini, per trainare per esempio le slitte sulla neve. Quindi tutta questa parte del mondo canino è molto interessante perché è un'operazione che raramente coinvolge, diciamo, la prima linea, e quindi abbiamo trovato del buon materiale. Senti Folco, quanti film avete trovato e visionato che presentavano questo tipo di materiale relativo agli animali? Guarda, non me lo chiedere perché mi fai solamente svenire il ricordo. No, è stata una ricerca gigantesca, con la complicazione, io le avevo già fatte avventure del genere con altri quando ho fatto la storia d'Italia dal 900 al 2000, erano 80 film sulla storia italiana, però erano tutto un archivio da cercare. Qui invece erano 100 archivi diversi e per di più con delle numerazioni diverse, per cui non è che ogni volta che sceglievamo una scena la toglievamo e poi questa ricerca, diciamo la massa in cui cercare diventava sempre più piccola. No, dovevamo sempre tutto tenere intero perché ogni archivio ha la sua numerazione diversa. Guarda, un impazzimento tecnico archivistico terribile. Senti, però nello stesso tempo anche molto entusiasmante perché come ti dicevo prima non c'era attenzione nei quei primi operatori, peraltro per poveracci anche bravissimi, sul mondo animale, a parte appunto i cavalli. perché non si occupavano di quello che facevano gli uomini. Quindi abbiamo trovato molte memorie e moltissime bellissime fotografie che di soldati e ufficiali. Gli ufficiali, per esempio, italiani, ma anche degli altri paesi, avevano il permesso di portarsi il loro cane al fronte. Non credo che fosse questo molto gradito ai cani. Però sì, invece, perché i cani erano felici di stare accanto ai loro padroni. Ma ci furono poi invece gli episodi dei cani che erano stati coinvolti nei bombardamenti, nelle avanzate, nelle ritirate, quindi perduti dalle loro case e dalle loro famiglie, che poi venivano riadottati dai militari che si ritrovavano vicini. Senti Folco, rispetto a questo grande lavoro di montaggio che avete fatto, che tipo di racconto avete costruito? Qual è stata la diciamo il costrutto drammaturgico? Il costrutto drammaturgico, come lo chiami tu, è stato drammaturgico soprattutto per noi che ci lavoravamo. No, voglio dire, insomma, c'è stato prima una ricerca vastissima, sì, poi la costruzione di questo nostro piccolo, sempre grande, ma già insomma un po' più ridotto archivio. E dopodiché abbiamo seguito una linea cronologica, okay, e abbiamo suddiviso gli argomenti per i vari animali coinvolti, inizialmente soprattutto i cavalli, poi i cani, e poi via via tutti, fino alle pulci, fino ai pinocchi. Quindi tutto quello che è stato il mondo animale coinvolto in questo dramma immenso dell'uomo, con queste pagine di affetto tra uomo e animale che sono contrappunto invece dalla bestialità di quel periodo. Sì, sì, sì. Senti, da domani nelle sale, tra l'altro tu lo presenterai al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma. In quante copie esce questo documentario? Ah, mi chiede, non sono io il produttore. So che esce in molte copie, ma soprattutto in molti DVD da parte dell'Istituto Luce, che è coproduttore di questo film. Okay. E poi esce invece in altre edizioni nella versione un pochino più breve che abbiamo fatto per Rai 1. Ok. Folco, io ti ringrazio, è stato un piacere, speriamo no, a presto. Grazie a te. Quando vai in onda? No, siamo in diretta veramente. Meno male che non ho detto parolacce. Folco, un abbraccio. Auguri, allora. A presto. Spero che ti veda il film e che ti piaccia. Va bene, a presto. Grazie, ciao. Folco Quilici, regista del documentario Animali nella Grande Guerra, in uscita in sala domani, venerdì 15 maggio. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni Dal Basso per parlarci delle novità del mese. Paco, ben ritrovato. Buongiorno a tutte e tutti. Ti premetto che ho un appuntamento telefonico alle 14, mi devono chiamare da fuori, quindi magari interrompiamo e poi riprendiamo tra qualche minuto. Sì. Insomma, intanto cominciamo, vai. Sì, allora, per questo mese abbiamo iniziato a presentare alcune novità per maggio, ma ce ne saranno altre a fine mese, e tra queste sicuramente ci tenevamo a segnalarvi anzitutto Sacred Stones, che è un documentario di una doppia regia di registi palestinesi che abbiamo conosciuto anni fa, un film di qualche anno fa, ed è un film molto importante dal nostro punto di vista perché mostra un aspetto meno conosciuto di quello che è lo sfruttamento economico delle risorse nella West Bank da parte dell'occupante israeliano, e cioè la pietra. È un documentario che quindi riesce, attraverso la raccolta di testimonianze ma anche di dati analitici, a mostrare come una corposa parte del business israeliano nei territori della West Bank sia legato all'estrazione della pietra per edificazione, e oltretutto mostra anche degli aspetti legati a quello che è appunto, come posso dire, l'impatto inquinante che questa estrazione ha sui villaggi palestinesi. Quindi ancora una volta vediamo non solo attraverso attraverso questo lavoro non solo quello che può essere uno dei delle motivazioni economiche che spingono a mantenere la situazione attuale in stallo, quindi con i territori occupati palestinesi, ma anche, una volta sfruttate le risorse da parte del governo israeliano, quali sono le ricadute in termini sanitari, sì, e in termini ambientali, sì, sui, sì, territori e sui villaggi locali. Tra l'altro immagino che il materiale estratto sia poi utilizzato anche nelle colonie che sorgono continuamente. Esatto, infatti c'è tutta una parte del documentario che parla proprio di quello, quindi cioè capirete bene che la beffa è molto grande da questo punto di vista, nel senso che è proprio l'estrazione e il principale uso di questi materiali estratti è proprio finalizzata alle nuove aree urbanistiche e quindi in particolar modo ai quartieri delle colonie, sì, sia, sì, per quando parliamo di Gerusalemme, ma sia in generale anche nei territori occupati veri e propri della West Bank, quindi proprio di villaggi di coloni. E sempre per questo mese poi abbiamo accolto in catalogo anche Gleno, dove finisce la valle, che del regista Francesco Di Martino, autore siciliano con il quale siamo già da diverso tempo in contatto e collaborazione, perché abbiamo già altri suoi film pregressi sul catalogo, e questo film è uscito proprio adesso, quindi è una prima visione, ed è un film molto interessante perché va a riscoprire quello che fu la strage del Gleno di 90 anni fa, quando crollò la diga. Stiamo parlando della valle del Gleno, che si trova nella Bergamasca, quindi appunto stiamo parlando del nord Italia. È una di quelle storie che magari rispetto ad altre simili è meno conosciuta o comunque meno ricordata. E la cosa interessante di questo lavoro è che torna su quei territori appunto 90 anni dopo, quindi con un lasso di tempo decisamente lungo, e mostra come la vita odierna si è ricostruita, la vita delle persone, delle comunità, successivamente a quello che accade appunto 90 anni fa. Chiaramente è anche questo un film dove le tematiche ambiente e territori sono centrali, e infatti è stato inserito nella sezione ambiente e territori del nostro sito, sì. Un film che tra l'altro ha già vinto alcuni premi, tra cui il premio del pubblico all'Eurobi Film Festival, e che quindi insomma ci faceva molto piacere accogliere in catalogo. Sempre tra le novità, però, passiamo adesso alla sezione archivio storico. Abbiamo messo in catalogo un altro dei lavori che ci ha fornito come supporto per l'archivio storico il giornalista Bernardo Iovene, e parliamo di un documentario chiamato Dalle belle città date al nemico. Chiaramente il tema è la resistenza, infatti l'abbiamo restaurato, digitalizzato e messo online gratuitamente proprio per i 70 anni della liberazione. Ed è un documento molto, molto interessante, dove è realizzato per il 50° della liberazione, quindi 20 anni fa, dove attraverso la voce, le immagini e la guida, diciamo, di Sante Notar Nicola, l'autore e Sante Notar Nicola vanno a ripercorrere i luoghi e i paesi attorno a Marzabotto, dove appunto c'è stata la famosa strage di Marzabotto, l'eccidio di Marzabotto durante la resistenza e durante l'occupazione nazifascista. E la cosa interessante di questo lavoro, chiaramente, a parte essere un ulteriore tassello all'interno del nostro archivio storico digitale, è che essendo stato fatto nel 95 ci sono ancora, è ancora ricco di tante testimonianze di partigiani che all'epoca erano ancora in vita, e quindi assume comunque un valore storiografico molto interessante come lavoro. Senti Paco, la curiosità rispetto proprio all'archivio storico è questo: vi sta arrivando materiale da vari luoghi e da varie identità? Sì, esatto, la cosa molto interessante da questo punto di vista è che tanti archivi storici anche di altre città, tra cui appunto Roma, Milano, Torino eccetera, stanno iniziando a interlacciarsi con questa sezione e a metterci a disposizione questi materiali. Spesso è anche una sorta di mutuo aiuto reciproco, nel senso che molti archivi magari hanno tanti materiali in VHS o similari, ma non hanno gli strumenti e le competenze per digitalizzarli e restaurarli. Quindi è un rapporto di mutuo aiuto che fa bene a tutti, e soprattutto fa in modo che tutta una serie di materiali che, ahimè, anche per la colpa dell'usura tecnologica non saranno a disposizione ancora per molto tempo, trovano una nuova vita e soprattutto trovano un nuovo modo di poter essere accessibili da parte degli utenti del web e quindi tutto ciò che ne consegue. Mm-hmm. Oh, tra l'altro mi stava venendo in mente una cosa, che tutto l'archivio storico ad esempio di Radio Onda Rossa è stato digitalizzato, se non sbaglio, dall'Università di Udine, e però il problema è che si tratta di materiale su cui bisognerebbe intervenire per il restauro, quindi magari si può pensare anche qualcosa da realizzare insieme in questo senso. Molto volentieri. Paco, io ti ringrazio. Grazie a voi come sempre. Un abbraccio e alle prossime uscite. A presto. Ciao. Salve. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle novità del mese. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per quanto riguarda l'indirizzo di posta elettronica, visionari@ondarossa.info. Con Yuri Ancarani, regista del documentario mediometraggio San Siro. Yuri, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Mi era arrivata questa comunicazione mail, mi interessava soprattutto dal punto di vista della novità che rappresenta questo lavoro e che ora tu ci spiegherai, Yuri. Beh, si tratta di un film documentario che ho realizzato con Sky. E tratta un tema molto conosciuto, che è quello del calcio. L'unica differenza che a differenza di come siamo abituati a vedere noi una partita di calcio, questo film racconta tutto quello che succede prima del momento del grande spettacolo, prima della partita. Ho seguito tutte le persone che lavorano attorno allo stadio e il film finisce proprio quando le prime telecamere di Sky riprendono i calciatori che scendono dal pullman e da lì inizia la diretta televisiva classica. Sì. Io la scena forse un po' più particolare è stata quella dove ho seguito i giocatori del Milan all'interno del pullman, quindi c'è questo momento di tensione prima della partita dove ci sono i giocatori all'interno. Queste sono riprese che non sono mai state fatte in Europa. Questo è un momento un po' clou. Il film è un film fatto di immagini e suoni, non ci sono dialoghi, c'è tutto un percorso sonoro molto importante, è una cosa che interessa molto a me, quindi con Dolby è nata questa collaborazione e abbiamo sperimentato questo nuovo sistema che sarà in tutte le sale cinematografiche a breve e si chiama Dolby Atmos. Ovviamente è stato realizzato non tanto per un film di ricerca come può essere il mio, ma per il grande cinema hollywoodiano. Mm-hmm. Di fatto gli effetti speciali. Dolby Atmos allestisce la sala cinematografica posizionando anche le casse sul soffitto, perfino il subwoofer sul soffitto, quindi quando ci sarà un'esplosione sentirà l'esplosione sopra di te. Da noi nel nostro film si sentivano i botti dei petardi che lanciavano gli ultra. Quindi praticamente lo spettatore è avvolto completamente dal suono. Esatto. Per esempio nella scena che ti dicevo prima del pullman, l'ambientazione sonora ti dà proprio la sensazione di essere lì con loro, con i calciatori, in questo viaggio dove l'obiettivo è arrivare nel grande tempio, no? Nel film sembrano un po' dei gladiatori che stanno andando al Colosseo con tutti gli urli tifosi attorno. Senti Yuri, per avere informazioni su San Siro, su questo mediometraggio documentario, ci lasci dei riferimenti internet? Sì, il film è presentato su su Sky Arte, e dovrebbe essere a breve visibile on demand. Ok. Bene. Su internet c'è il trailer. Non si può vedere di più, bisogna aspettare Sky. Ok. Iuri, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Ti ringrazio, grazie a tutti. Ciao. Ciao, buona giornata. Questo era Iuri Ancarani, regista del documentario mediometraggio San Siro. E invece siamo adesso in collegamento con Angelo Poggi di Machinarium. Ci sei, Angelo? Sì, ciao. Intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, Machinarium, una società di effetti speciali, ha curato quelli del film di Matteo Garrone che esce in sala oggi giovedì 14 maggio, Il racconto dei racconti, ma mi interessa molto la nuova avventura di questa Factory, di cui ci parlerai un po' tu, Angelo. Sì, guarda, Machinarium nasce dopo una lunga partnership con Leonardo Cruciano e Nicola Sganga, dove abbiamo messo a punto tutta una serie di innovazioni nel mondo proprio degli effetti speciali, gli effetti visuali, quelli pratici e in tutto quello che è il settore dell'animatronica, e praticamente dopo una serie di esperienze di progettazione, anche sperimentazione, abbiamo realizzato questo tipo di lavoro, specialmente sul film di Garrone, dove abbiamo integrato e messo in comunicazione tutti questi reparti che spesso invece lavorano un po' a compartimenti stagni. Ecco, volevo chiederti proprio, Angelo, in questo senso, facendo un passo indietro, quanti sono gli artisti coinvolti e che provenienze hanno? Allora, innanzitutto abbiamo dato una valenza fortemente italiana questo progetto, e sul film di Garrone sono stati richiamati tanti italiani che lavorano all'estero, che hanno lavorato in grandissime produzioni come Il Signore degli Anelli, come Hobbit e altri importanti film dove appunto gli effetti speciali, i visual effect sono praticamente l'elemento principale della riuscita del film. Sono ritornati in Italia insieme ad altri artisti italiani che comunque lavoravano con noi da tempo, e abbiamo riunito questo grande gruppo, e diciamo che tra la parte degli effetti speciali, la parte dell'animatronica, dei visual effect, insomma, tutti i reparti, lo special make-up sul film di Garrone, hanno lavorato circa, almeno per quello che riguarda il nostro settore, una penso 70-80 persone. Ecco, ci dicevi una delle caratteristiche, peculiarità, è quella di cervelli italiani, diciamo così. E volevo sapere se ci sono caratteristiche che vi siete dati dal punto di vista artistico ma anche professionale, se puntate qualcosa in particolare. Ma sicuramente non abbiamo voluto scimmiottare gli americani, perché tanto non aveva senso, e poi non volevamo comunque fare quel tipo di lavoro. E come italiani abbiamo voluto comunque dare un nostro stile, uno stile che, dove, come dire, il senso pittorico, illustrativo di quello che era poi alla fine il risultato finale dell'effetto, potesse arrivare come un elemento sicuramente diverso da quelli che sono gli effetti che invece vengono fatti, insomma, negli Stati Uniti e in altre parti. E in effetti, se tu fermi un po', come dire, prendi i fotogrammi del film di Garrone, spesso hai la sensazione di stare di fronte a un quadro. Più precisamente, il nostro riferimento è stato proprio la corrente pittorica del verismo, dove, come dire, tu vedi, osservi, pensi, cioè credi di vedere qualcosa di reale, ma la sensazione poi comunque che ti arriva è pittorica. Ecco, questo mix sicuramente ci ha contraddistinti ed è il nostro stile, insomma, ecco, non essere freddi o comunque tipicamente digitali, ma miscelando proprio quello che è l'effetto sul set e poi l'effetto digitale, abbiamo ottenuto, diciamo, ecco, proprio un risultato pittorico che è ben diverso da quelli che sono invece gli stili che arrivano, diciamo, un po' dalle altre parti, Stati Uniti o Inghilterra, eccetera. Ecco Angelo, sempre in riferimento al film di Garrone, per quanto riguarda le creature animali e i mostri, i riferimenti estetici sembrano quelli del fantasy. Sì, sì, in realtà, beh, certo, praticamente il film di Garrone ha voluto portare nella realtà delle fiabe, no? Sì. E quindi, come dire, creare sui set, perché è stata proprio quella la diversità rispetto a un classico film fantasy, cioè riportare sul set il mondo delle favole, quindi non crearlo esclusivamente al computer, miscelare queste cose. Quindi abbiamo dovuto sviluppare delle tecnologie legate a scanner che potessero alla fine scannerizzare l'intero set. Comunque abbiamo realizzato proprio queste creature e gli attori hanno recitato con la creatura, la creatura speciale, o comunque con dei trucchi che erano molto spesso realizzati proprio sul set, e poi sono stati ovviamente integrati o completati o migliorati poi nella parte digitale, ecco. Questo mix, quindi c'è una combinazione tra tecnologia e materia. Esattamente, cioè nel senso che abbiamo, comunque veniamo da una scuola importante, quella delle creature speciali, da Rambaldi, no? E comunque c'è una scuola italiana che noi comunque abbiamo continuato, e Leonardo Cruciano è, diciamo, sicuramente il rappresentante più illustre e anche innovativo. E questo, come dire, si sono create proprio dei software o comunque delle utilizzate delle attrezzature che hanno poi creato questo trade union tra la parte digitale dei computer e la parte, diciamo così, proprio del mondo materiale della creatura, che viene proprio creata dall'artista e ricorda un po' il mondo di Rambaldi, ecco, la fusione di queste due cose, sì, sì. E il dialogo, il continuo dialogo tra tutti i reparti, supervisionati ovviamente da Leonardo Cruciano, Nicola Sganga e Bruno Albimarini, per quanto riguarda, insomma, un po' elementi principali di tutta questa operazione. Senti, stanno arrivando sullo schermo altri lavori in cui c'è il vostro contributo, e state lavorando ad altri progetti? Bah, guarda, sì, diciamo che stiamo lavorando su tantissimi progetti, perché appena si è percepita, insomma, ecco, questa innovazione, questo tipo di qualità, come siamo stati chiamati. A livello internazionale stiamo praticamente lavorando per la Metro Goldwyn Mayer, che praticamente ha fatto un remake di Ben Hur, e abbiamo realizzato praticamente tutte le parti, tutte le bighe della scena blu, e più tantissimi altri, diciamo, props, eccetera. E poi stiamo lavorando anche con Viacom, Zoolander 2, dove stiamo lavorando su sia sul settore, diciamo, insomma, degli effetti speciali, delle speciali creature, e poi vabbè, abbiamo anche altri lavori, però magari ancora c'è un po' di ritardo, è ancora presto però non possiamo purtroppo dirli, ma insomma sono veramente insomma numerosi, anche insomma importanti produzioni italiane, insomma, che saranno con importanti registi, eccetera. E in più stiamo sviluppando dei nostri progetti di produzione che ci vedono, come dire, venire proprio come produttori o coproduttori su progetti che proponiamo noi, o che magari vengono dall'estero e veniamo coinvolti anche come coproduttori e non solo come studio service di produzione. Ma Angelo, in chiusura, ci dai riferimenti internet per saperne di più sulla vostra attività? Beh, guarda, sicuramente il sito macchinarium.it, la pagina Facebook che è stata aperta da qualche giorno, e lì potete trovare sicuramente le maggiori informazioni o comunque aggiornamenti tutta l'operazione. Bene. E le varie cose che stiamo facendo. Allora, un abbraccio. Grazie. E ci risentiamo per magari le future novità. Ah, certo, ci risentiremo sicuramente. Ciao, ti ringrazio per l'opportunità. Ciao, saluto a tutti. A presto, ciao. Ciao. Angelo Poggi di Machinarium, società Factories, curatrice degli effetti speciali del film Il racconto dei racconti, in uscita in sala oggi, giovedì 14 maggio. In collegamento Sergio Giusti di Enece Film, curatore di Unità di Sonorizzazione, un evento che si svolgerà alla stazione Leopolda a Firenze il 19 maggio prossimo, cioè martedì. Sergio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, ciao. Senti, una piccola rettifica subito, non è martedì, ma è questa domenica, 17 di maggio. Allora ho sbagliato proprio la data, va bene. Non c'è problema. Alle ore 19, dentro questo festival che si chiama Fabbrica Europa, che si svolge dentro la stazione, ex stazione Leopolda di Firenze. Allora, per dare le coordinate. Ecco. Esatto. Parliamo intanto del... facciamo un passo indietro. Enece Film, non so dove vada l'accento, però insomma questa nuova... Enece Film. Parliamo di questa esperienza, Sergio. Allora, di Enece Film io non sono un membro effettivo, diciamo, è un collettivo di filmmakers con cui io collaboro attivamente da almeno un paio d'anni, e tutto è partito dal film Unità di Produzione Musicale, che abbiamo fatto da un'idea mia e di Enrico Gabrielli, un musicista che suona nei Calibro 35, ha suonato in After Hours, nei Mariposa e in mille situazioni. E quindi abbiamo fatto questo film assurdo, lo chiamerei così, abbiamo chiamato 72 musicisti e li abbiamo costretti a comporre musica e eseguirla su turni da catena di montaggio dentro una fabbrica, e questo l'abbiamo poi filmato con 11 telecamere con questi registi, questi filmmaker di Enece Film, con cui poi è partita una collaborazione che continua adesso e ha fruttato anche questa nuova versione, diciamo, di performance dal vivo, che è Unità di Sonorizzazione. Oh, quindi una piccola folle operazione, un piccolo colossal, chiamiamolo così. Esatto, in cui, sì, per essere un film indipendente è decisamente un colossal, perché insomma, eravamo più di 120 persone quel giorno, insomma. Tra l'altro il film Unità di Produzione Musicale uscirà adesso al Biography Festival a Bologna a giugno, quindi insomma siamo anche felici che finalmente si riesca a fargli avere una vita, e niente, quindi questo per intanto, mentre Unità di Sonorizzazione non è un film, ma invece è una versione di una performance simile dal vivo. Sì. E la differenza grossa è che in quel caso lì si trattava di una cosa a porte chiuse, non c'era un pubblico, era lavoro vero e proprio, ed era stata fatta proprio perché sapevamo che avremmo fatto un film, ecco, quindi aveva proprio questo senso. Invece adesso Unità di Sonorizzazione doveva avere una natura per un pubblico. A questo punto abbiamo modificato e abbiamo deciso di applicare la stessa turnazione di catena di montaggio alla sonorizzazione di brevi film di vari autori che ci hanno gentilmente concesso le loro opere. Oh, di quanti lavori stiamo parlando? Guarda, i lavori sono 13 film di vari autori, alcuni c'è Antonio Rezza con Flavio Mastella che ci ha dato un loro vecchio porto, Paolo Gioli che è un artista che ha fatto molti film sperimentali fin dagli anni 60, poi ci sono Moira Ricci che è un artista, video artista e anche fotografa, Alessandro Sambini, Fabrizio Bellomo, Luca Ferri che sono altri documentaristi, artisti, insomma tantissimi, sono 13, adesso non li voglio dire tutti per non, certo. non allungarmi troppo. In più ci sono 24 musicisti che tra cui Rodrigo Lerano degli After Hours, lo so, Giulio Favero del Teatro degli Orrori, gente che viene dai Mariposa, dai Julie Sercat, Xavier Iriondo, sempre dagli After Hours, non so, veramente tantissima gente che adesso non voglio nominare tutta, comunque basta andare nel Facebook di Unità di Produzione Musicale, che ospita anche l'evento Unità di Sonorizzazione, e vedere l'evento e capire quanta gente. Quindi è un'altra volta una bella operazione collettiva, sì, no? Sì. Complessa da organizzare, e che ha sempre questa idea del collettivo, perché poi alla fine anche noi partiamo da un collettivo, siamo io, Enrico, Gabrielli, insomma, parte di Ativa, in questo caso anche Nece Film in una parte prettamente ideativa, perché comunque c'è l'aspetto anche video, e poi c'è tutta la questione delle persone che noi coinvolgiamo in questa specie di fabbrica, diciamo, immaginaria, che poi diventa reale all'interno di questi spazi, ecco. Oh, Sergio, quanti saranno gli apparecchi di ripresa, e poi che futuro avrà questo lavoro? Allora, gli apparecchi di ripresa questa volta non saranno così tanti come è stato nella prima volta, perché lo scopo è una performance dal vivo e non un film, no? Okay. Quindi noi faremo comunque una documentazione della performance con una serie di sia di macchine fisse sul cavalletto, che probabilmente, anzi, useremo sicuramente delle GoPro che daremo ad alcuni dei musicisti, in modo da avere anche una visione quasi soggettiva di quello che succederà, per farne comunque una documentazione. Però diciamo, rispetto a Unità di Produzione Musicale, che è un vero e proprio film che è stato concepito in molto tempo, e quindi con una regia molto molto accurata, proprio a cura di NC Film, che sono poi Pietro De Tilla, Elvio Manuzzi e Tommaso Perfetti, che hanno fatto la regia, Guglielmo Trupia, sempre di NC Film, che ha fatto il montaggio, insomma, quindi c'è veramente tantissima gente che ha lavorato. Quindi in questo caso è una performance dal vivo, quindi invito la gente a venire a vederla dal vivo, perché il pubblico è necessario ed è stata costruita per un pubblico, ma ovviamente faremo anche una documentazione video che poi svilupperemo, insomma. Bene, a questo punto ti chiedo i riferimenti internet per saperne di più. Allora, per saperne di più direi che per Unità di Sonorizzazione la cosa migliore è prendere il nostro Facebook, che è Unità di Produzione Musicale, proprio così, tutto scritto attaccato, su Facebook, basta cercarci con Unità di Produzione Musicale, e da lì si trovano tutte le coordinate per Unità di Sonorizzazione. Se qualcuno è interessato anche al film, ovviamente c'è invece anche il sito di UPM, che è http://ncfilm.com, ovviamente, /UPM, e c'è il sito del film Unità di Produzione Musicale. E sono possibili suggerimenti o richieste di contributo, insomma, materiale che si può proporre? In che senso? A voi, no, nel senso per i prossimi progetti, non lo so. Per adesso noi abbiamo questo progetto di UPM, che è stato finanziato tra l'altro in crowdfunding, bene. Per cui noi abbiamo avuto piccoli contributi da tantissima gente per fare il film, e adesso finalmente il film uscirà, e poi cominceremo, ovviamente a fronte del loro contributo avranno una serie di DVD, alcuni le tute, alcuni da lavoro con cui abbiamo fatto lavorare i nostri partiti, insomma c'è tutta una serie, diciamo, di piccoli di quelli che siamo compensi, no? che avranno i nostri microfinanziatori. Quindi per adesso noi dobbiamo ancora, siamo nella fase di restituzione, anche voglio dire, del nostro. Però ovviamente noi, visto che la cosa è andata bene, poi in futuro se avremo e faremo nuove iniziative, siete aperti a contributi, ci ritorneremo a così a chiedere sostegno in tutte le forme, che siano sia microfinanziarie che anche di diffusione, eccetera eccetera. Bene. Ecco, l'unica cosa che da dire è che, insomma, si tratta di una strana operazione anche molto aperta, che non dà delle risposte certe, molto collettiva, ci sembra interessante in un momento come questo, sì, porre una cosa del genere. Bene, bene. Sergio, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. A presto, grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sergio Giusti di NC Film, curatore di Unità di Sonorizzazione, evento che avrà luogo alla stazione Leopolda a Firenze domenica 17 maggio. Parliamo adesso di un documentario, L'arrivo di un treno, sulle tracce della Spoleto Norcia. Ne parliamo con il regista Filippo Fagioli. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Filippo. Grazie, buongiorno a tutti. Avevo avuto modo di vedere questo tuo lavoro la scorsa estate al Clorofilla Film Festival, ti ho inseguito per un po', alla fine ci siamo riusciti. Raccontiamo un po' a chi ci ascolta questa storia, Filippo. Sì, il documentario è nato sostanzialmente per una mancanza di immagini, di video relativi proprio al tracciato sulla Spoleto Norcia. C'era inizialmente un primo documentario fatto da Pietro Remigio Rindinella, che si chiamava Il Trenino Azzurro, ed è un documentario che sostanzialmente raccoglieva tutti i vecchi girati relativi alla chiusura, quindi parliamo degli anni 60. Poi non è stato fatto altro, a meno che insomma filmati amatoriali e fotografie. Abbiamo deciso di raccontare questa storia partendo da delle fonti, quindi proprio dai personaggi interessati, quindi figli di capotreni, capostazioni e chiaramente parte insomma di personaggi istituzionali, quindi su Spoleto, Norcia e Santa Maddalena di Narco. Da lì insomma si è creata la storia, che poi abbiamo legato anche con poesie, musiche originali eccetera. Mm-hmm. Oh, Filippo, due punti mi interessavano in particolare. Sì. Il primo è che comunque si è trattato di un'opera che è stato un gioiello di ingegneria legata anche ad un contesto, perché si snoda in un ambiente bellissimo, molto bello, c'è un gran panorama. Sì, esatto. Mantiene insomma, è famosa anche per appunto la difficoltà del territorio, cui gli ingegneri del tempo hanno dovuto imbattersi in questi ampi terreni. C'è appunto un elicoide che sarebbe un come dire, per risolvere appunto l'acclività del terreno, appunto si utilizzavano gallerie elicoidali, quindi giri su se stessi che poi alla fine risolvessero dei piani molto difficili altrimenti da sorpassare, quindi per decine di metri. Questa è una delle principali caratteristiche. L'altra appunto è che è considerato un po', soprannominato anche il piccolo Gottardo dell'Umbria. Quindi la Valnerina è sì un territorio collinare, però a tratti sembra appunto di essere in montagna quasi. L'altro elemento è che si tratta di un ex grande opera che nel tempo ha avuto un secondo utilizzo, perché adesso si può attraversare a piedi, in cavallo e in bicicletta. Sì, esatto, da poco tempo è stata appunto, prima era un tra virgolette un cantiere all'aperto, cioè non si poteva circolare nemmeno a piedi. Da poco tempo, da pochissimi mesi, appunto è stata messa in sicurezza tutta la tratta e quindi è andata a finire sotto diciamo la dicitura di mobilità dolce. Quindi tutto ciò che riguarda camminate, gare podistiche e appunto passeggiate a cavallo, appunto può essere usata anche per questi scopi, per questi eventi, e devo dire insomma sta riscuotendo molto molto successo, molto richiamo da tutto il territorio intorno, insomma fino anche a un contesto romano. Sì, quindi immagino che sia finita sulle guide turistiche anche. Sì, si sta piano piano prendendo piede come una delle più belle passeggiate appunto ciclopedonali. Quanti chilometri di tratta sono? Dunque il vecchio tracciato sono 61 chilometri, allo stato attuale invece percorribili ce ne sono più o meno 47-48. Quindi con degli... Perché appunto non hanno potuto ripristinare per intero la linea perché c'erano prima dei ponti di ferro che attraversavano proprio il Nera e poi il Corno. Invece adesso parti di questi passaggi non sono state ripristinati. Senti Filippo, i punti, dice, i 47 chilometri, quindi ci sono delle interruzioni e si riprende da più avanti nel... Esatto, sì, ci sono delle interruzioni e appunto dove nel tempo è ricresciuta la vegetazione oppure dei caselli sono stati, appunto, sono diruti e quindi non sono più agibili. Quindi si può ripercorrere, insomma, procedendo avanti c'è proprio una strada statale che la costeggia e quindi è di facile accesso, insomma, da più punti. Senti Filippo, dopo la partecipazione al Clorofilla Film Festival immagino che abbia girato altre rassegne e che futuro avrà? Ci saranno una sorta di distribuzione dei passaggi televisivi, un'uscita in DVD? Allora, praticamente il DVD già esiste, okay. Da un anno, appunto, l'abbiamo presentato a marzo del 2014 presso i comuni di Spoleto, Norcia e Perugia, chiaramente, e da lì è iniziata subito, diciamo, la vendita e distribuzione in DVD. Si parla di una distribuzione attualmente locale, quindi Umbra, tra diciamo i sponsor aderenti e in più le strutture ricettive che comunque lo tengono in conto vendita sul territorio perugino e umbro. E, è stata fatta anche un crowdfunding per autofinanziare in parte il documentario e è andata anche su reti locali, parlo delle reti nostre umbre, quindi TEF e Umbria TV e comunque speriamo, insomma, di andare anche oltre dai confini umbri per tutto quello che riguarda le ferrovie abbandonate, ferrovie dismesse, sì. Che ci sono vari portali, insomma, in giro. Sì. Filippo, in chiusura ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più? Sì, allora il sito è www.umbrianascosta.it e raccoglie altri primati dedicati all'Umbria, altri documentari e luoghi memorabili che abbiamo tradotto, appunto, in documentari. Altri invece sono solamente dei trailer e per tutto quello che invece riguarda la vendita del DVD stesso, appunto, all'interno del sito c'è scritto tutte le informazioni su dove reperirlo. Bene, allora Filippo, io ti abbraccio, a risentirci prossimamente. Grazie, è stato un piacere collaborare con voi. Grazie. A presto, ciao Filippo. Arrivederci. Filippo Fagioli, regista del documentario L'arrivo di un treno sulle tracce della Spoleto Nord. Ritroviamo Gianluca Guzzo di My Movies per parlare di un nuovo progetto, Nuovo Cinema Repubblica. Gianluca, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Eccomi, ciao, grazie per l'invito, noi ci vediamo abbastanza puntualmente sì, sì. Con i vostri radioascoltatori. E sì, abbiamo ancora una novità, è il Nuovo Cinema Repubblica. Nuovo Cinema Repubblica è una sala virtuale, insomma, come vi ho raccontato ormai da qualche anno, che però ha una particolarità, la particolarità della dimensione. Siamo arrivati a 10.000 posti, quindi una sala virtuale da 10.000 posti dove orientativamente tutti i lunedì, ma ci saranno, vedrete, anche delle sorprese durante la settimana per delle serate, degli eventi speciali anche negli altri giorni, quindi tutti i lunedì una sala di 10.000 posti insieme a My Movies e Repubblica. Una sorta di stadio, uno stadio virtuale. Un palazzetto dello sport. Un palazzetto dello sport. Sì, esatto, è proprio così. In realtà la volontà era quella, insomma, di amplificare questa sala, di amplificare questo lavoro che noi facciamo per il cinema di qualità. Il cinema di qualità che è stato sempre molto curato da parte di My Movies, anche attraverso questa sala gratuita, attenzione, questa è una particolarità molto, molto importante, sì, quindi il fatto di poter vedere insieme dei film che spesso non hanno una distribuzione o che hanno piccole distribuzioni e quindi scoprire insieme delle chicche piuttosto che scoprire insieme degli autori nuovi, emergenti o anche degli autori affermati, quindi a riscoprire delle opere già consolidate, ecco, tutto questo lo è My Movies insieme a Repubblica, diciamo che Berewiller ci dà la possibilità di amplificare questa cosa, rivolgerci a un pubblico molto più ampio e quindi promuovere ancora di più il cinema e il cinema di qualità. Gianluca, già c'è stato un primo appuntamento, se non sbaglio. Abbiamo già avuto un primo appuntamento con il Sale della Terra lunedì scorso e abbiamo avuto il sold out in pochissime ore. È stata una grande sorpresa per noi, è un grande successo. Le prenotazioni per la visualizzazione del film non sono state 10.000 ma 12.000, perché poi in poche ore abbiamo fatto sold out, abbiamo avuto la sala sold out. E poi abbiamo riaperto le prenotazioni la sera stessa, il lunedì, per permettere poi alle persone che in qualche modo aspettavano questo evento la possibilità di conoscere questa sala e la modalità di fruizione di questo del film. E anche online abbiamo aperto ancora per altre 2.000 persone, ancora una volta sold out. Quindi sì, c'è stato questo evento, c'è stato un grande entusiasmo da parte del pubblico. Il film è piaciuto tantissimo, ma è un film che non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo ed è stato assolutamente un grande successo. Proprio a questo proposito, Gianluca, sì. Ti scusa se ti interrompo un attimo, il Sale della Terra non solo è tra i miei 5 film preferiti della scorsa stagione ed è stato uno tra i più votati nel gioco che facciamo a inizio anno cinematografico, a inizio 2015, con una serie di colleghi ed amici facciamo le cinquine dei film preferiti tra quelli usciti in sala, e il Sale da Terra è stato più volte nominato, ma ne parlavamo anche la scorsa puntata con Vieri Razzini, perché è uno di quei casi in cui un film uscito poi in poche, relativamente poche copie, ha resistito per mesi e mesi in sala, è uscito in autunno ed è tuttora in sala qui a Roma. Sì, è stato un evento davvero straordinario, nessuno si aspettava un successo di queste dimensioni. È partito piccolo con poche copie, sì, esattamente il 23 ottobre, in poche copie, ma ha riscosso un successo dopo l'altro. Le copie nelle sale cinematografiche sono cresciute, ma è ancora in qualche sala. Il film è ancora in qualche sala e regge benissimo, benissimo la sala. Guarda, in realtà sto guardando in questo momento lo Showtime e c'è è ancora in 3 sale, in Lazio, Lombardia e Piemonte. Insomma, questo è uno di quei film che veramente riescono ad avere una lunga coda, a trascinarsi un grande periodo di permanenza nelle sale cinematografiche. È vero, e qui probabilmente i cinema saranno felici, perché a volte ai cinema si accusa il fatto che non tengono i film, che li smontano dopo pochi giorni. Sì, in parte probabilmente è vero, nel senso che è vero che se il film, alcune volte i film vanno curati, vanno protetti, vanno spinti e non solamente sfruttati, no? Lasciami passare questo termine. Però è anche vero che in alcuni casi, come il Sale della Terra, poi c'è la volontà da parte degli esercenti di continuare a mantenere il film, di tenere il film. Chiaramente in questo periodo non farà più i numeri che avrà fatto ad ottobre, però il titolo continua a girare e c'è la volontà anche da parte degli esercenti cinema e quindi dell'industria cinematografica di mantenere il film nelle sale. Questa è una grande cosa. Un'altra informazione, sì, relativamente al box office, visto che ci siamo, il film ha superato di poco i 2 milioni di euro di incasso, che insomma è un bel numero per un documentario. Sì. E questo è un altro dato interessante per quanto riguarda la diffusione del cinema di qualità e dei documentari, che sta, insomma, siamo particolarmente poi attenti, sì, allo sfruttamento e alla diffusione di questo cinema. Chiudiamo questa parentesi che avevo aperto sul Sale della Terra, forse ci stavi già dando indicazioni sulle prossime uscite, Gianluca. Esatto, proprio così, proprio così. È la prossima uscita, quindi il prossimo lunedì, abbiamo da poco aperto la sala cinematografica e abbiamo già circa 2000 prenotazioni. Il prossimo film è Il Regno d'Inverno, Winter Sleep, è il film che ha vinto Cannes lo scorso anno, quindi lo proponiamo proprio durante il Festival di Cannes per raccontare insomma quest'ultima Palma d'Oro prima dell'assegnazione, insomma tutti aspettiamo per domenica dell'altra per capire insomma se ci saranno dei vincitori e quali tra questi e se tra questi ci sarà un italiano. Come sai My Movies quest'anno è a Cannes anche da coproduttore, perché in realtà abbiamo anche il film di Roberto Minervini, Louisiana, che è nella sezione Uncertain Regard, è coprodotto per la parte italiana anche da MyMovies.it, che è una delle nostre, la primissima in assoluto operazione di coproduzione che facciamo. Mm-hmm. Ecco, ancora sulla sala virtuale di Nuovo Cinema Repubblica avremo Class Enemy la settimana seguente a Il Regno d'Inverno e poi una anteprima web, quindi un film che avremo prima dell'uscita nelle sale cinematografiche. Il film in questione è Una storia sbagliata, il film di Gianluca Maria Tavarelli con Shanna e Isabella Aragonese. Mm-hmm. Questi sono un po' i film che vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane su My Movies Live Nuovo Cinema Repubblica. Ecco, a proposito di Nuovo Cinema Repubblica, Gianluca, ci dicevi delle caratteristiche, ossia attenzione per il cinema di qualità, le opere prime, e volevo chiederti chi è che curerà materialmente le scelte dei titoli che programmerete. Sì, questa è una cura che stiamo facendo direttamente con la redazione di Repubblica, quindi c'è un incontro da parte di My Movies con la redazione e la direzione di Repubblica.it e di Repubblica, e scegliamo insieme i film, valutiamo insieme i film, capiamo la forza e gli elementi. Chiaramente parliamo a due pubblici diversi. My Movies è abituato a parlare ad un pubblico molto molto verticale, un pubblico molto di cinema. Il pubblico di Repubblica è un pubblico molto legato allo stesso tempo al cinema. C'è un incontro tra le due redazioni e quindi siamo in due a scegliere i titoli che poi andranno in sala. Devo dire che c'è una grande intesa sotto questo punto di vista con tutto il gruppo e il team di Repubblica, e finora siamo sempre stati d'accordo su qualunque proposta. Quindi bene, insomma, sono felice di questa unione, di questa fusione delle due redazioni. Chiudiamo con i riferimenti web per le informazioni del Nuovo Cinema Repubblica. Sì, si può sempre andare su My Movies Live, quindi mymovies.it/live, dove bene o male si avranno tutte le informazioni relativamente ai film che My Movies Live propone, tra cui anche quelli di Nuovo Cinema Repubblica. Altrimenti il sito ufficiale dell'operazione, insomma della sala virtuale con brand con Repubblica, è My Movies Live. http://mymovieslive/repubblica.it. Da questo indirizzo poi si accede a tutti i film che andranno in programmazione. Gianluca, io ti ringrazio, ci sentiamo prossimamente per le novità. Un abbraccio. Un abbraccio a voi e ancora grazie, e ci sentiamo molto molto presto con delle interessanti novità. Ok. A presto. Ciao ciao. Ciao. Gianluca Aguzzo di My Movies sul nuovo progetto Nuovo Cinema Repubblica, di cui già c'è stato un primo appuntamento lunedì scorso con la proiezione del Il Sale della Terra di Wim Wenders. E con questo concludiamo la puntata settimanale di Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 sugli 87.9 modulazione di frequenza. Potete però seguirci anche in streaming dal sito internet della radio, che è ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio alla voce Trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci sentiamo la settimana prossima.